Eccoci qua, nuova puntata di Senza Frontiere su Radio Wombat. Ricordiamo che potete ascoltarla in diretta, la state ascoltando in diretta tutti i lunedì alle 13.30 e in replica dal martedì al venerdì sempre alle 13.30. Potete inoltre riascoltarla oppure scaricarla e riascoltarla tramite podcast nella apposita sezione del sito di Radio Wombat, wombat.noblogs.org, da dove potete ascoltare e o scaricare tutti i podcast delle varie trasmissioni Radio Wombat. È appunto nuova puntata di Senza Frontiere e terza puntata di Hone Grenzen, la rubrica, diciamo, l'aggiornamento mensile da Berlino e quindi con notizie da Berlino e in generale dalla Germania. Vi lasciamo all'intervista di Hone Grenzen, ricordandovi che l'intervista è preceduta da un brano di un gruppo musicale della DDR. Buon ascolto. schon die Nacht verklang. Ist nicht wahr, wenn Schmerz noch Kerzen schimmert. Von dem Grau des Morgens längst verjagt. Mal fassen, tief im Blute fühlen. Dies ist Meinung, es ist nur durch dich. Nicht die Stirne mehr am Fenster kühlen. Ran ein Nebel schwer vorüberstrich. durch die Welt. Flieg ich durch die Welt. Flieg ich durch die Welt. Na na na na na na na na na na na. Buongiorno a tutti, quella che abbiamo appena sentito era Am Fenster dei City, canzone che ci fa da introduzione per l'argomento che voglio proporvi oggi a One Grenzen, la finestra mensile sulla Germania. Come dicevo, quella che voglio proporvi oggi è un'intervista a Barbara Stahl, una donna di 84 anni, che nella sua vita ha vissuto varie fasi, dal nazismo alla DDR alla Germania che noi oggi conosciamo. Ringraziando Barbara Stahl per il tempo dedicatoci, parto subito con la prima domanda, chiedendole quando è arrivata a Berlino. Giulia, ich bin heute 84 Jahre alt und kam 1952 nach Berlin. Also vor 65 Jahren. Ich war 19 Jahre alt und Giulia, hatte einen oggi ho 84 anni e sono arrivata a Berlino nel 1952, cioè 65 anni fa. Avevo 19 anni e un posto da studente alla Humboldt Universität. Volevo diventare giornalista o insegnante. I miei genitori e i miei quattro fratelli più giovani non vivevano in città, bensì in un paese a nord di Berlino. Vale a dire che la mia famiglia, alla fine del gennaio 1945, come altri milioni di tedeschi a est dell'Oder, dovettero abbandonare la propria casa ed emigrare all'interno della Germania. La Seconda Guerra Mondiale era tornata al punto di partenza, ai confini della Polonia. Molto sangue era stato versato e l'Armata Rossa spingeva le truppe della Weimar in direzione Berlino. La mia famiglia aveva passato la guerra incolume, ma nel 1945 non possedevano alcun bene materiale. I miei genitori dovevano fare grossi sforzi per mantenere i cinque figli. Dati i miei buoni voti a scuola, ho potuto concludere gli studi e accedere alle scuole superiori presso un collegio. Wegen meiner guten Leistung in der Schule konnte ich die Dorfschule abschließen und gleich anschließend auf einem Gymnasium lernen. Es war ein Gymnasium mit Internat. Und das muss ich jetzt hervorheben. E qui devo dire che i miei genitori non dovettero pagare niente, né la scuola, né poi il posto letto o il cibo. Pagava lo Stato. E le mie compagne di classe possono raccontare una biografia esattamente uguale. Io non ero privilegiata. Tutti coloro che avevano la maturità avevano anche un posto all'università. Era possibile scegliere liberamente l'indirizzo di studio. Wir haben alle frei gewählt, aber Certo, tutti potevano scegliere liberamente, ma c'era una grande domanda per il posto di insegnante. E questo perché chi era stato insegnante durante il nazionalsocialismo non poteva più esercitare la professione sotto la DDR. Quindi mancavano molti posti e questo, ammetto, che mi ha spinto ad aspirare al corso di pedagogia alla Humboldt. Hai dovuto fare un test? No, ho dovuto consegnare solo il certificato di maturità, che aveva ottenuto un buon risultato, non molto buono, perché all'epoca per ricevere il massimo dei voti avresti dovuto avere le stesse conoscenze dell'insegnante. Comunque, al contempo mi sono candidata per un posto da giornalista, perché questo in realtà era il mio primo desiderio. E ho ricevuto anche in questa facoltà un riscontro positivo, ma la mia vecchia insegnante, che mi aveva accompagnato per tutto il ginnasio, disse che avrei fatto meglio a studiare germanistica alla Humboldt. Dovrei aggiungere che ricevevo anche una borsa di studio, nonostante i miei genitori appartenessero né alla classe operaia né a quella contadina, le quali classi sociali avevano avuto negli anni precedenti meno opportunità di studio e quindi avevano diritto ad una borsa superiore. Comunque il mio stipendio mi permetteva di vivere senza dover mai lavorare durante gli anni di università. Dovevo solo pagare un po' per il posto letto e per la mensa, altrimenti l'università era per tutti gratuita. Sehr wenig für das Mittagessen in der Mensa und das Studium war für alle kostenlos. Ich träum, ich treff dich ganz tief unten, der tiefste Punkt der Erde, Marianengraben, Meeresgrund. Robert K2 und Everest, das Dach der Welt, dort geb ich dir ein Fest. Wo nichts mehr mir die Sicht verstellt, wenn du kommst, seh ich dich kommen schon vom Rand der Welt. Es gibt nichts Interessantes hier, die Ruinen von Atlantis nur, aber keine Spur von dir. Ich glaub, du kommst nicht mehr. Wir haben uns im Traum verpasst. Du träumst mich, ich dich. Keine Angst, ich weck dich nicht, bevor du mich von selbst erwachst. mich ich dich, keine Angst, ich weck dich nicht, bevor du nicht von selbst erwachst. Du träumst mich ich dich, keine Angst, ich finde dich, am Halbschlafbettchen pack ich dich und zieh dich zu mir. Denn du träumst mich ich dich, ich träum dich du mich, wir träumen uns beide wach. Da qui ho esercitato il mestiere di insegnante per più di 30 anni, ma guardando all'indietro credo che giornalismo mi sarebbe piaciuto di più. Non tutti sono fatti per il mestiere di insegnante, io ero troppo tollerante, non è un mestiere facile. Etwas zu tollerant oder ja, ich hatte es nicht einfach im Lehrerberuf. E com'era Berlino all'epoca? Es war eine Stadt in Trümmern. Besonders im Zentrum von Berlin konnte man den Straßenverlauf zum Era una città in rovina. In centro non si poteva riconoscere il corso delle strade. Da studenti lavoravamo come volontari per accumulare le macerie. Io stessa recuperavo i mattoni così da poterli riutilizzare. Ossia, tiravo giù con un martello i resti delle costruzioni. Das heißt, ich habe mit einem Hammer die Reste von Mörtel und so weiter abgeklopft. E si sentiva già in questo periodo la divisione tra Est ed Ovest. Qual era la politica in questo periodo? Also für mich hatte ich keine Probleme mit der Politik der DDR. Was war mein Ziel? Io non avevo problemi politici con la DDR. Quel periodo avevo un obiettivo, volevo studiare e questo ho potuto fare. Volevo essere indipendente in un futuro successivo, indipendente da un partner e questo mi è stato possibile. Ho cresciuto 3 figli che a loro volta ho educato all'indipendenza. Poi questo volevo dire che allo stesso tempo del mio studio, nel 1954, al mio secondo anno di università, i miei genitori, con i miei 4 fratelli, si sono trasferiti in Repubblica Federale e certamente ci fu un forte scontro politico. Per me non era neanche da discutere seguire i miei genitori. Come detto, volevo studiare e devo dire che nessuno dei miei 4 fratelli ha avuto la possibilità di intraprendere gli studi nella Repubblica Federale. Vi sono arrivati nel 1954 ed erano nuovamente immigrati, questa volta dalla DDR, prima dalla Germania Est. Di nuovo non possedevano niente e avevano una nuova etichetta di immigrati senza capitale. I miei fratelli hanno iniziato a lavorare a 14 anni. Sono stati collocati nella Germania del Nord e lì sono rimasti non accettati per 5 anni, sistemati in una caserma che prima era una prigione, in una stanza per 6 persone con cucina condivisa da utilizzare a turno con le altre famiglie. Questo mi ha raccontato mia madre più tardi. Non voglio dare una luce troppo negativa. Mio padre era un commesso e dopo 5 anni ha ricevuto un posto come commesso e una casa con 2 stanze in Krefeld. I miei fratelli erano lavorativamente indipendenti e sono all'epoca usciti di casa. La mia sorella, di un solo anno più giovane, che aveva iniziato a studiare con me in collegio ed ha seguito i miei genitori, ha imparato il mestiere di infermiera, ma non ha lavorato molto. Ha sposato un funzionario statale ed è stata casalinga per il resto della sua vita. We'll be right back. Bundesrepublik Krankenschwester gelernt, hat aber diesen Beruf nur ganz wenig ausgeübt. Sie hat einen Beamten geheiratet und war ihr Leben lang dann Hausfrau. Danach habe ich mich... Dopo questi episodi ho iniziato a sentirmi molto a mio agio in DDR. Una grande quantità di intellettuali, soprattutto scrittori, che avevano dovuto abbandonare la Germania di Hitler ed emigrare negli Stati Uniti, dopo non hanno scelto la Repubblica Federale come patria, bensì la DDR. Ad esempio Anna Seger, Friedrich Wolf, Leon Feuchtwanger e soprattutto in campo teatrale Bertolt Brecht. Perché hanno scelto questo Stato? Perché questo Stato aveva chiaramente troncato con il passato nazista. Gli ufficiali nazisti non avevano alcuna chance. La DDR si è distanziata ufficialmente, ma anche attraverso la sua politica, dalla Germania nazista. E non solo questo. Si cercava di combattere anche le cause che avevano permesso la venuta del nazismo di Hitler, quindi il monopolio dell'industria e delle finanze. I territori venivano distribuiti alle famiglie nullatenenti e a ciascuna famiglia venivano dati 10 ettari, la cosiddetta Bodensreform, la riforma dei possedimenti terrieri. Più tardi, come accadde anche nell'Unione Sovietica, questi territori furono accomunati in cooperative, il cui guadagno era condiviso. Questo certo era accaduto anche in Repubblica Federale, ma il proprietario più scaltro era diventato più grosso e sempre più grosso, tanto che altri piccoli proprietari terrieri si impoverirono e dovevano virare verso altri impieghi o essere assunti alle grosse aziende. Come veniva percepito l'influsso dello Stato nella vita di tutti i giorni? Nel tempo la politica è diventata più restrittiva. Questo ha dato noia e molti degli intellettuali dell'epoca di cui prima raccontavo hanno concluso la loro opinione in un rifiuto dello Stato della Germania dell'Est. Questo l'ho percepito anche personalmente come insegnante. Infatti la mia carriera di insegnante si è conclusa nel 1985 e sono diventata bibliotecaria. Questo perché si aveva paura del pensiero capitalistico. Libri, teatro e tutto ciò che riguardava la cultura era molto economico, ma altre cose che ad esempio anche i miei genitori ritenevano importanti, come possedere una macchina o viaggiare in Italia, questo agiva sugli uomini. Però non bisogna dimenticare che io vivevo in un appartamento di 150 metri quadrati e non dovevo preoccuparmi dell'affitto. Un appartamento che sentivo come mio e che nel 1990 ho dovuto abbandonare perché la Deutsche Bank lo ha comprato tutta la palazzina e lo ha velocemente rivenduto. no hate on my black with a white beater on. Yeah, I jumped in my Raiders football jacket. Old school, yeah, me so good, so this the damn cool. Spanish shades, black locs, khaki slow. In front, I'm host you in a hot show. Bumpin', always into something. Reach for the trunk, get the pump and watch this. Don't fuck with my team. Even my bitches still a sweet 16. Innocent, locked by Glock 19. 4 or 8 night with an infrared beam. Look at me, I'm just a bad boy flossing. 5-0, hit the spot way too often. I've been elite, I grab my shit, reload, cock back, stick your back, cat with the sick. Money, bitches, guns, I got it all. VIP status in the streets, still a ball. Everywhere I look, they paint my name on the wall. Control my demons, tell us to crawl. It's the law, yeah, I do what I want, do what I like. No fist fight, who gets left and right, pop, name it. Less shots to the head, you can think no more with shots in the head. I'm a corner boy, hang on the block with my black room voice. I keep the spot hot, when you do too much, you get shot. I'm a corner boy, hang on the block, black room voice. I keep the spot hot, when you do too much, you get shot. C'era una situazione molto elevata di povertà. In DDR non esisteva assolutamente la povertà come oggi. Certamente ogni persona era alla ricerca di beni materiali, ma in DDR ognuno aveva abbastanza da mangiare, ognuno aveva un appartamento e non esisteva la disoccupazione. Sì, mancavano i beni di lusso, quindi molti al momento di scegliere hanno scelto la Repubblica Federale, ma v'erano molti che non volevano questa via e tra questi ci sono anche io. E quando il muro è caduto era molto triste. Avevamo una chance di impostare un'altra direzione, quella di lavorare non uno contro l'altro, ma con l'altro. Des Gegeneinander, sondern eher das, den Weg des Miteinander. Oggi però penso che forse non era mai stato possibile, dato il piano Marshall che aveva fatto un incredibile credito per supportare l'iniziativa privata nella Repubblica Federale. E all'interno del piano Marshall esisteva un paragrafo che proibiva di usare questo credito per iniziative sociali, ad esempio supportare i miei genitori all'epoca. Eri sposata? Ero sposata con un uomo con cui stavo dalla decima classe, ma dal quale mi sono separata a 35 anni, nel 1969. E pensa, la mia richiesta di separazione si è conclusa in 6 settimane, nonostante avessimo 3 figli e fossimo stati insieme 20 anni. Questo perché, secondo mio marito, che voleva la separazione, io non ero politicamente credibile, poiché ai suoi occhi ero troppo borghese. Ma ciò che io non sapevo è che lui da anni stava lavorando per la Stasi e per il suo futuro in questo campo era d'intralcio la mia connessione di primo grado a causa della mia famiglia con una nazione capitalista. Come era vissuta la parità di diritti sessuali e transgeneri? Eravamo molto emancipati. Era normale che io avessi le stesse opportunità dei miei colleghi maschi. Ciò che importava era la prestazione del lavoro. L'emancipazione tra donne e uomini non era discutibile. E l'omosessualità, in quanto fatto completamente diverso dall'eterosessualità, io l'ho avuto, questa percezione mi è stata data dopo la caduta del muro. Ero amica con un omosessuale, un mio collega di lavoro. Non era discriminato, ma neanche era mostrato in pubblico. Io lo sapevo e tutti lo sapevano. Cosa è stato e continua ad essere detto di fuorviante nei confronti della Germania dell'Est? Ich weiß nicht, was ich darauf antworten soll. Es war alles. Es waren alles nur Halbwahrheiten. Beh, non so cosa rispondere. Tutto era mezza verità o bugia. Quando oggi accendo la radio o la televisione, sento tra l'altro come io ho vissuto 40 anni della DDR, cosa ho pensato e provato. Tutto questo lo sanno molto bene gli altri, i media finanziati dal neoliberismo. Ovviamente ciò fa molto male. Das muss ich mir sagen lassen und das tut natürlich sehr weh. Und spesso viene detto che Berlino è una città grigia. Cosa pensi in riguardo? Also ich kann dazu wirklich nicht viel sagen, weil non posso dire molto perché in DDR io sono cresciuta e vissuta in un altro mondo. Certo, era più scuro. Questo perché le pubblicità nelle città dell'Ovest hanno fatto le città luminose. Certo, il teatro, la vita della cultura era diversa. Era concentrata su aspetti esteriori e ciò fa parte anche della pubblicità per teatro e cultura. E la pubblicità era urlata e costava pubblicità. Così tanta luce costa soldi. La DDR ha sempre illuminato le sue costruzioni. Il prezzo per l'elettricità che la mia famiglia aveva da pagare era così molto basso. Ma la vita pubblica non era illuminata. Ma certo le case corrispondevano agli standard. Erano costruite nello stile Bauhaus che qua aveva visto la sua fondazione durante la Weimar. E queste abitazioni che il Bauhaus ha sviluppato sarebbero state più tardi negli Stati Uniti sviluppate in grattacieli. Ecco, queste case erano per noi salutari e ci hanno resi felici. Ognuno aveva un bagno. Io nel 1955 ricevevo un appartamento con il bagno, con un marito ed un bambino, mentre i miei genitori vivevano ancora nella caserma. Grauer Beton, rauer Jargon, Freiheit gewonnen, wieder Terror. Auf und davon nicht noch eine Saison. Auf und davon nicht noch eine Saison. Grauer Beton, rauer Jargon, Bilder verschwommen, kehr nicht mehr um. Auf und davon nicht noch eine Saison. Auf und davon nicht noch eine Saison. Alte Schule, steile Kurve, immer gegen Wind. Folgt dem Wendekind dorthin, wo man noch Hände ringt. Unbeschwerte Jahre früh zu Ende sind. Dir niemand sagt, dass es ein gutes Ende nimmt. In meinem Hauseingang kaum Gutes los. Freunde werden stumpf, werden skrupellos. Lieber schnell leben, ruhelos. Statt Abstellgleis, kein Zielbahnhof. Seelenfänger schleichen um den Block und machen Geschäft mit der Hoffnung. Fast hinter jeder Tür lauert ein Abgrund, nur damit du weißt, wo ich herkomm. Seelenfänger schleichen um den Block und machen Geschäft mit der Hoffnung. Fast hinter jeder Tür lauert ein Abgrund, nur damit du weißt, wo ich herkomm. Alle guten Dinge kommen von oben. Der Zebrafink ist mir zugeflogen. Und ab und zu hielt gleich dort, wo wir wohnen, ein ganzer LKW voll mit bulgarischen Melonen. Kids aus Übersee waren unsere Ikonen. Und weiße Sneaker mehr wert als Millionen. Weiße Sneaker mehr wert als Millionen. Weiße Sneaker mehr wert als Millionen. Ich denk heute noch oft zurück an meine Straße, an die Alten und die Kids aus meiner Straße. Aus der Platte, die aus meiner Etage. Man hat uns vergessen, dort Anfang der 90er Jahre. Desolate Lage, jeden Tag mit der Bagage. Frag nicht, was bei mir ging, ging jeden Tag mit der Bagage. Neue bunte Scheine sprechen eine eigene Sprache. Neue bunte Welt erstrahlt in der Leuchtreklame. Seelenfänger schleichen um den Block und machen Geschäft mit der Hoffnung. Fast hinter jeder Tür lauert ein Abgrund, nur damit du weißt, wo ich herkomm. Seelenfänger schleichen um den Block und machen Geschäft mit der Hoffnung. Fast hinter jeder Tür lauert ein Abgrund, nur damit du weißt, wo ich herkomm. Grauer Beton, grauer Jargon, Freiheit gewonnen, wieder Terror. Auf und davon, nicht noch eine Saison. Auf und davon, nicht noch eine Saison. Grauer Beton, grauer Jargon, Bilder verschwommen, kehr nicht mehr um. Auf und davon, nicht noch eine Saison. Auf und davon, nicht noch eine Saison. Den Namen, sie waren gesund. Und das hat uns glücklich gemacht, dass jeder ein Bad hatte. Es gibt eine Esiste un grande numero che valuta il cambiamento in positivo, ossia che la Repubblica federale si è estesa a tutta la Germania. Non è neanche possibile dire che prima era bene ed oggi è male. Doveva esserci un cambiamento. Ma il cambiamento che oggi si è verificato, una grande parte di noi non lo voleva. Questa differenza sociale della massa, come esiste in Germania oggi, era per noi impensabile. Il direttore era uguale tra uguali. C'era l'invidia, certo, che è naturale nell'uomo, ma questa durezza e brutalità no. Adesso sono da 27 anni cittadina federale e mi sento così a disagio come non mai. Questo stato di diritto, questo termine è usato in modo inflazionato. Siedi di fronte alla televisione e senti sempre e ancora che qualcuno ti dice tu vivi in uno stato con diritti. Ma per me questo testo ha lo stesso valore di un testo in una pubblicità, ossia testo e contenuto non corrispondono. Denn jeder weiß, dass Text und Inhalt nicht übereinstimmen.